cosa c'è, tanto è proprio inutile. Ho già capito che tu non puoi restare con me. Vorrei poterti dire che non voglio perderti, ma so che ti farei soffrir di più. Se credi che però ti sia un po' più facile, riparlane con me prima di lasciarmi se vuoi. Sorriderò per te come fosse semplice, e quando te ne andrai io piangerò. Tanto è proprio inutile. Ho già capito che tu non puoi restare con me.